puoi passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:38 minuti, i numeri per chiamarci in diretta, il numero verde per le telefonate 800 24 00 24, sms al 349 238 6666, la zanzara at radio24.it per scriverci. Andiamo subito a sentire i titoli dei TG. TG2. Walter Veltroni si è dimesso da segretario del Partito Democratico, la decisione dopo la sconfitta di Soru in Sardegna e il crollo dei consensi al partito. Nuovo governatore della Sardegna, Ugo Cappellacci, candidato del centrodestra. Il PDL è il primo partito ed esulta, è una vittoria politica di Berlusconi. Durante la lezione di violino un tredicenne accoltella alle spalle il suo maestro, è accaduto in una scuola media di Chioggia vicino Venezia, le condizioni del docente non sono gravi. Questa sera parte la 59esima edizione del Festival di Sanremo, affidata per la seconda volta alla direzione artistica di Paolo Bonolis. Torna la gara d'eliminazione che coinvolgerà giovani proposte e big. Erano i titoli del TG2. Non capisco oggi il titolo dell'Unità, che non è un giornale qualunque, perché è il giornale rappresentativo della sinistra italiana e soprattutto è il giornale che ha un editore, che è Renato Soru. Il governatore uscente sconfitto sonoramente in Sardegna, sostanzialmente da Berlusconi, diciamo la verità, senza la campagna elettorale di Berlusconi Cappellacci non avrebbe mai vinto, senza il fatto che Berlusconi ogni fine settimana si è recato in Sardegna per fare la campagna elettorale insieme al suo candidato. L'Unità titola: ha perso la Sardegna, la sconfitta della Sardegna, ma è la sconfitta di Soru, perché i sardi dovrebbero aver perso? La maggioranza dei sardi ha votato per Cappellacci e dunque per Berlusconi. Andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto. Walter Veltroni lascia dopo la batosta elettorale che ha consegnato la Sardegna al centrodestra, la conferma delle dimissioni al coordinamento del Partito Democratico. Si chiude il ciclo iniziato un anno fa e passato attraverso la sconfitta alle politiche e le inchieste giudiziarie sulle amministrazioni di sinistra. A 9 è in condotta ma non va d'accordo col prof di musica e gli pianta un coltello nella schiena. Succede a Chioggia, il 13enne ha ferito l'insegnante per un rimprovero. Dall'ospedale la sua drammatica testimonianza. Ancora violenza sulle donne, arrestati 3 ragazzi bresciani, avevano stuprato un'amica minorenne che avevano invitato in vacanza. Orrore a Pavia, vittima un 83enne, cieca e inferma, in manette un rumeno. Milano, intercettazioni shock al processo ai medici della clinica Santa Rita accusati di interventi. Bene, 18:41, 800 24 00 24, cosa c'è nel nostro menu serale per i vostri interventi? Naturalmente la caduta di Veltroni, la caduta direi rovinosa di Veltroni, che getta il Partito Democratico nel caos alla ricerca di un percorso e poi anche di un leader. Veltroni che 20 mesi fa iniziava così la sua marcia, certamente non trionfale, al Lingotto. Bisogna stare meno nei talk show televisivi, non pensare di avere ogni giorno una cosa speciale da dire. E poi diceva: andremo soli e liberi. Perché abbiamo deciso unilateralmente di correre liberi, liberi più che soli, liberi di poter finalmente non mediare parole, non attenuare cambiamenti possibili, non rinunciare a ciò che... E in realtà soli e liberi non furono, non fu il Partito Democratico, perché ci fu l'alleanza con Di Pietro. Dopo le elezioni diventa un impiccio questa alleanza, tant'è che a un certo punto Veltroni dice: l'alleanza non esiste più, e in realtà poi esiste. Quell'alleanza è finita. Quindi è finito. Il giorno in cui Di Pietro ha preso e ha stracciato questo impegno, perché visto che aveva il numero dei parlamentari necessario per fare un gruppo parlamentare improprio, è venuto da noi e ha detto: quell'impegno preso non vale più. E questo ha concluso. E non è servita a Veltroni nemmeno la manifestazione dello scorso ottobre, lanciata, ricordate, con 3 mesi d'anticipo, la grande manifestazione che doveva essere risolutiva per le sorti sia del Partito Democratico sia di Veltroni stesso, ma soprattutto per il paese, secondo il segretario del Partito Democratico. Al Circo Massimo, il 25 ottobre, l'Italia è migliore della destra che la governa. L'Italia è un paese migliore della destra che lo governa in questo momento. L'Italia è un paese migliore della destra che nel tempo recente lo ha già governato, anche se qualcuno troppo spesso fa finta di dimenticarlo. Insomma, Veltroni alla fine si è dimesso indubbiamente per molti problemi interni che ha il Partito Democratico, ma anche per la sconfitta alla regionale. Già era successo con D'Alema, addirittura da capo del governo, di dimettersi dopo una disfatta a importanti elezioni regionali. È bastato in realtà che Berlusconi facesse le campagne elettorali in Sardegna, ripeto, ogni fine settimana in aiuto a Cappellacci, e soprattutto che impostasse una campagna elettorale veemente, forte, anche tra virgolette violenta nei confronti del candidato del Partito Democratico, cioè dire Soru. Io sono innamorato della Sardegna. È una persona che è fallita in tutto quello che ha fatto. Come imprenditore ha messo su un'azienda che è riuscita a inanellare 11 anni di perdite continuative. Come politico ha distrutto con il suo carattere torvo, iroso, la stessa coalizione di sinistra che lo sosteneva. Come governatore la Sardegna è arrivata al record di famiglie sotto il livello di povertà e di disoccupati. Io sono innamorato della Sardegna. È veramente un incantatore di serpenti. Mi sento un sardo acquisito e sono orgoglioso di essere anche cittadino onorario di Olbia. Se i sardi dovessero decidere per Soru, commetterebbero un errore veramente imperdonabile. Questo è stato il succo della campagna di Berlusconi in Sardegna. 800 24 00 24. Mentre succedeva tutto questo, in qualche ora tra la notte e il pomeriggio di oggi, alla Camera, nella politica, irrompeva anche la sentenza Mills, come sapete, la condanna di quel faccendiere inglese, chiamiamolo così, di quell'avvocato inglese implicato in una vicenda insieme al Presidente del Consiglio. E alla Camera ecco la posizione dell'Italia dei Valori. Sentite Donati, irrompe alla Camera dei Deputati. Il Tribunale di Milano oggi ha condannato l'avvocato inglese David Mills a 4 anni e 6 mesi di reclusione, con l'accusa accolta dalla sentenza di essere stato corrotto in relazione a una deposizione da rendere in un processo e, come tutti credo in quest'Aula sanno, anche se probabilmente non a tutti interessa, di essere stato corrotto dall'attuale Presidente del Consiglio italiano, l'onorevole Silvio Berlusconi. Allora, io credo, signor Presidente, che oggi sia chiaro a tutti in questo Paese il perché l'Italia si è dotata di una legge che non ha paragoni in nessun altro paese, né civile né incivile al mondo, e cioè il lodo Alfano, una norma che stabilisce l'impunità, chiedo scusa signor Presidente, ho sostanzialmente concluso, che sancisce sostanzialmente l'impunità di 4 alte cariche dello Stato, ma in realtà di una sola, da ogni reato commesso fino al termine del mandato. Chiedo pertanto a nome del mio gruppo che il Presidente del Consiglio venga in quest'Aula a riferire su questi fatti. Grazie. Andiamo a sentire da Pescara Giusto, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera a lei e complimenti per la sua trasmissione, veramente complimenti. Mi dica, fa... dica. Allora, ascolti, io volevo intervenire per quanto riguarda... E va bene, la linea si è chiusa, riprenderemo il collegamento tra pochissimo. Marco da Bologna. Sì, buonasera. Dica. Niente, io volevo fare semplicemente un intervento su quella che è la sconfitta del PD. Sì. Era semplicemente una valutazione. Il fatto che uno schieramento come il PD, che è sempre stato basato su quella che è la partecipazione, insomma, delle persone, il partito negli ultimi anni è diventato pressoché una SPA e di conseguenza... Che significa una SPA? Me lo spieghi, Marco? Ha preso il 30% alle passate elezioni politiche, non è che ha... Sì, lo so, ma lei sa bene che c'è uno zoccolo duro di persone che, non volendo comunque votare il centrodestra, hanno come alternativa il fatto di avere un partito con una storia radicata di anni. Ma se lei va a contare i nuovi elettori che hanno votato un nuovo partito, almeno per quello che ce l'hanno, diciamo, detto e venduto, secondo me sono molto molto pochi, ecco. No, ma scusi, però qui lei sta facendo il DNA agli elettori del Partito Democratico. Il Partito Democratico è una forza che alle passate elezioni politiche, adesso certamente i sondaggi dicono che a livello nazionale ha meno, i dati in Sardegna forse lo dimostrano, è un partito che ha intorno al 30%, non è una forza politica da poco. No, no, assolutamente, anzi, ma si figuri, non dico mica che è da poco. Dico semplicemente che nel momento in cui si cerca di fondare, tra virgolette, un partito nuovo, ci vorrebbe una spinta che non è avuta solo ed esclusivamente da quelli che sono interessi di partito, ma bisogna scendere dal piedistallo e mettersi a parlare con la gente e sentire quelli che sono i problemi delle persone. Il contatto con il paese, d'accordo Marco? Questo secondo me è fondamentale. D'accordo, la ringrazio. Aldo Cazzullo, inviato del Corriere della Sera. Ciao Aldo, buonasera. Ciao, buonasera. Allora, io non sappiamo i veri motivi per cui Veltroni si è dimesso, domani gli spiegherà i suoi motivi in una conferenza stampa. A me sembra che tutto possa essere ridotto, già qualcosa ha detto in qualche frase di pochi istanti fa, mi assumo delle responsabilità mie e non, basta farsi del male, mi dimetto per salvare il progetto al quale ho sempre creduto, lo faccio per salvare il Partito Democratico e la sua possibilità di esistere, eccetera, e altre cose che spiegherà meglio certamente domani. A me sembra che il problema si possa ridurre a uno solo: chi comanda all'interno di un partito? In generale il Partito della Libertà ha risolto questa sua cosa perché comanda Berlusconi, anche il Partito della Libertà si deve dare naturalmente le sue regole, e secondo me queste regole alla fine il Partito Democratico non se le è date. Non è un problema da poco, perché sono rimasti dalla fondazione del Partito Democratico tanti piccoli cacciccati, diciamo, non solo a livello locale ma anche a livello centrale, o no? Credo che tu abbia ragione, il problema è appunto quello di chi comanda e di chi decide chi comanda. Sono passati appena 13 mesi dall'investitura quasi plebiscitaria che Veltroni ha avuto, non da 4 cacicchi ma da quasi 3 milioni di persone, e questo verdetto è passato in cavalleria, non esiste più, non ha alcuna importanza. La politica, PD compreso, si è palesemente arroccata, si è chiusa nelle segrete stanze, il verdetto popolare non ha alcun rilievo, è stata una consultazione così pro forma, e palesemente è caduto qualcosa di diverso. Veltroni è stato mandato lì quando, in un momento di mala parata, in un momento in cui Prodi stava per cadere e si andava incontro a elezioni difficilissime. Ora che le elezioni sono state inevitabilmente perse, e forse l'unico torto di Veltroni è stato quello di non aver capito per tempo, di essersi illuso di poterle vincere, a quel punto Veltroni non serviva più ed è stato attaccato, massacrato giorno per giorno fino a questa inevitabile conclusione. Che errori ha commesso secondo te? Perché naturalmente ne ha commessi, perché non ci sono solamente stati, diciamo, gli altri dignitari del Partito Democratico contro di lui che hanno determinato questa situazione, ma evidentemente dopo le elezioni qualche errore Veltroni l'ha commesso. Secondo me l'unico vero grande errore di Veltroni è stato essersi illuso di poter vincere le elezioni politiche e di poter battere Berlusconi. E questa illusione l'ha portato a fare l'alleanza con Di Pietro, che a lungo andare si è rivelata controproducente, ma Veltroni pensava veramente di farcela. Lui ha confuso l'interesse e anche in certi margini l'entusiasmo attorno alla sua persona, al suo progetto, con un consenso popolare che non c'era. Questo francamente lo si è capito e lo ha indebolito l'indomani. Però posso dirti una cosa, Giuseppe? Sì. Anziché aggiungere la mia voce, quando io devo fare le critiche a Veltroni, le ho fatte quando lui era in sella, dover aggiungere la mia voce alle tante, alle troppe, sì, di questi sì. giorni, di questi mesi, un po' mi ripugna. Posso dirti una cosa? L'insegnamento vero di questa vicenda è quanto meschina, quanto opportunista sia a carattere nazionale, a sinistra e non solo. Un anno fa tutto quello che toccava Veltroni diventava era il salvatore della patria. Era un grandissimo sindaco, un poeta, un romanziere, salvatore del PD, salvatore della patria. Da quando è stato sconfitto, tutto quello che toccava sembrava, perdonami, che diventasse cacca, non beccava più una, neanche persino Obama. Onestamente, la vittoria di un partito che si chiama Partito Democratico, qualcosa poteva significare anche da noi. Il fatto che Veltroni da 2 anni stesse dicendo che Obama era la vera novità, mentre D'Alema, per dirne uno, il geniale D'Alema che voleva consegnare l'unità agli angelucci, andava invece dicendo che la donna giusta era Hillary Clinton, qualcosa vorrà pur dire. No, invece ormai praticamente tutto quanto gli veniva messo in conto, e a questo punto la fine era inevitabile. Resta l'impressione che il PD in realtà, più che seppellire Veltroni, stia seppellendo, non dico se stesso, ma comunque un'intera generazione, quello sì. Non c'è dubbio, è una buona considerazione mi sembra questa di Aldo Cazzullo. Un'ulteriore considerazione si può fare sul dopo, anche se qui ci mettiamo in una situazione molto complicata, perché capire quello che può succedere adesso è molto difficile. Io credo che però questa mossa di Veltroni sia stata fatta anche un po' per sparigliare, perché insomma chi poi è contrario alla sua linea o a Veltroni si palesi finalmente in maniera esplicita, no? Ma guarda, sinceramente io non ho parlato con Veltroni oggi, non so dirti se lui si riservi ancora dei margini di ritorno o no. La mia impressione è che ormai lui si abbia deciso dentro di sé che la vicenda era finita. Sai, è palese nel momento in cui D'Alema dice che di aver sbagliato a non indurre Bersani a candidarsi contro Veltroni, è evidente che quella è la stellettata finale. D'altro canto, io non so se sarà Bersani il segretario, io fossi loro punterei su una persona più giovane come Enrico Letta, ma sicuramente questa svolta rappresenta anche un autoridimensionamento del PD, altro che vocazione maggioritaria. Si entra nell'ordine di idee di essere un partito del 25%, non molto di più della prosecuzione dei DS, che dovrà faticosamente, pazientemente rimettere insieme i tasselli del puzzle, cercare di nuovo Bertinotti e Vendola, cercare magari Casini e trovare ancora una volta un federatore, un Prodi o un Ciampi che non ci sono più, loro magari sperano un Draghi, loro magari sperano un Monti, ma vanno a cercare, che appunto metta insieme i cocci e rappresenta un'alternativa credibile a un governo che peraltro non sta facendo bene a mio modo di vedere. Però di questo insomma ci sarà modo di parlare e sembra una lunga traversata nel deserto. Lunga, grazie, sì. Grazie ad Aldo Cazzullo. Grazie 18 55 52 Sergio, provincia di Milano. Buonasera. Dica. Io sono rimasto abbastanza colpito dal comportamento dei cittadini della Sardegna, no? Per questo voto che a quanto... Beh, questa sera non va bene con le telefonate, cerchiamo di aggiustare qualcosa, partiamo con il TG3. Veltroni si è dimesso da segretario del PD, la decisione dopo la sconfitta in Sardegna, per molti sono un problema, me ne vado. Il PDL esulta per il voto sardo, fondamentale, dicono del centrodestra il lavoro di Berlusconi, il premier a colloquio con Napolitano. L'avvocato Mills condannato a 4 anni e 6 mesi, i giudici prese soldi per testimoniare il falso in 2 processi a Berlusconi. Roma ancora liberi gli stupratori, la stampa romena critica l'Italia per la proposta di castrazione chimica, raid razzista Sassari. A Chioggia un ragazzino di 13 anni accoltella il professore dopo un rimprovero. Il docente è stato operato ed è fuori pericolo. Il processo per gli interventi inutili alla clinica Santa Rita di Milano, in aula i colloqui compromettenti, IPM intercettazioni decisive. Parte stasera il Festival di Sanremo con Mina e Benigni, ancora polemiche sui contratti milionari e sulla canzone che non piace ai gay. Bene, bene, lancio un referendum radiofonico. Chi deve essere il nuovo leader del Partito Democratico, secondo voi? Alcuni avanzano già la candidatura, per esempio, di Rosy Bindi o comunque di una donna. Giusto che Veltroni si sia dimesso, mi scrive un ascoltatore. Ora avanti con la Bindi che già meritava alle primarie. Da internet, dai vari blog, leggo una cosa divertentissima. Fossi il Partito Democratico, non mi lascerei sfuggire l'occasione per offrire la segreteria del partito a Gianfranco Fini. È divorziato, ha posizioni più progressiste e laiche di molti a sinistra, ha difeso spesso Napolitano, si è speso a più riprese a favore degli immigrati. Cosa si può volere di più? Sky TG24. Veltroni si dimette e basta farsi male, lascio per salvare il progetto del PD. Il partito verso un segretario provvisorio, Di Pietro dice l'opposizione siamo noi. Il PDL si gode la vittoria in Sardegna, Cappellacci annuncia, ora si cambia. Condannato l'avvocato Mills, corrotto per dire il falso in 2 processi a Berlusconi. Sicurezza faccia a faccia tra il premier e Napolitano, ronde fuori dal decreto. Sono 2 pregiudicati stranieri, gli stupratori della Caffarella, vicina alla svolta. Anziana cieca violentata a Pavia, arrestato romeno di 31 anni. Litiga col prof e lo accoltella alla schiena, 13enne fermato a Chioggia. Giudice non tenne udienza, col crocifisso in aula, Cassazione annulla la condanna. Adriano assolto dalla prova TV, involontario, il gol di mano nel derby. Erano i titoli di Sky TG24 alle 19.21, 800 24 00 24. Vi ripeto, il grande referendum di questa sera, alcuni già si sono lanciati, Casini addirittura, Finocchiaro, Bindi, Bindi, Bindi, tre volte, un ascoltatore, Renato Soru, beffardamente, scrive un altro, chi deve essere il nuovo leader del Partito Democratico. Sentiamo fra pochissimo Daniele da Roma, Corrado da Bari. Tre spunti per questo nostro referendum. Innanzitutto una canzone che ci vuole, Io vado via, Franco IV e Franco I, qualcuno li ricorderà. Vado via per non tornare più, io sto pian piano allontanandomi da te. Io vado via, così ha detto Veltroni pochi minuti fa davanti agli altri maggiorenti del Partito Democratico, alcuni dei quali si erano dati da fare, insomma, per questa decisione. L'altro spunto, se volete, è certamente Nanni Moretti a Bianca, facciamoci del male. Continuiamo così, facciamoci del male. Continuiamo così, facciamoci del male. E poi ancora la Ferilli, Sabrina Ferilli, che in questo modo, sentite, aveva salutato l'arrivo di Veltroni alla guida del Partito Democratico, a proposito di quelli che un anno fa dicevano che Veltroni era il salvatore della patria, lo dicevano tutti, poi anche quelli che qualche mese dopo lo attaccavano senza pietà. Veltroni è veramente il nuovo, è una persona di una lucidità, una dignità. Sono io che sono venuta per gli operai. Il precariato, quando diciamo eravamo precari noi, era un po' la paghetta, no? Era il lavoro che si faceva prima di iniziare poi a lavorare. Io che sono venuta per gli operai. Walter è stato bravissimo, perché a mio giudizio ha fatto la campagna elettorale più bella in assoluto, una anche delle più belle che io mi ricordo da quando sentivo Berlinguer, che sinceramente ero anche molto piccolo. E questa era la Ferilli, entusiasta di Veltroni. Eppure apprendiamo oggi dalla prima pagina di Repubblica, poche ore prima delle dimissioni di Veltroni, che anche la Ferilli se la prende con Walter. L'attrice romana protesta con una lettera, caro Walter, per l'immunità concessa dal Partito Democratico in Parlamento alla sua nemica. C'era una querela in corso, una querella tra lei e una rappresentante del Parlamento, Katia Belillo, lo ricordate, comunista, il PD e l'ira della Ferilli. Insomma, Veltroni tradito da tutti, anche da una rappresentante di quel jet set di attori e attrici che lo hanno sempre sostenuto. Andiamo a sentire un ascoltatore prima di altri spunti. Daniele da Roma. E buonasera, dottor Cruciani. Dica. E guardi, io più che insomma referendum non saprei come esprimermi, però volevo porre una domanda. Mi dica, secondo lei chi deve essere il nuovo leader del Partito Democratico? Le verrà qualcuno in mente? Non so se sia elettore di centrosinistra, lei di centrodestra, se se ne frega della politica, ma secondo lei il Partito Democratico chi deve avere come leader? Dico che insomma, in dipendenza delle campagne elettorali, ho votato sia da una parte che dall'altra. Benissimo, allora chi deve essere il leader del Partito Democratico secondo lei? Allora, guardi, io volevo dire questo. Secondo me il problema di fondo nasce dalla trasparenza che è stata millantata e non è stata rispettata. Io parlo del centro-sinistra in generale. Innanzitutto non si capisce il perché, questo è molto molto grave, quando ci fu il governo Prodi non è stato dato il Ministero della Grazia e Giustizia di Pietro. Ma non perché io sia un difensore di Pietro. Allora lo dica, secondo lei il nuovo leader del Partito Democratico deve essere Antonio Di Pietro? Lo dica, Daniele, non c'è niente di male. Non ho capito, scusi. Allora, dicevo, secondo lei il nuovo leader del Partito Democratico, del centro-sinistra, deve essere Antonio Di Pietro? No. Assolutamente no. No, dicevo il Ministero di Grazia e Giustizia a Di Pietro. Non sì, ma sono cose vecchie, Daniele, sono cose vecchie. Pensiamo a quello che succede adesso, su. Saranno pure cose vecchie, però l'elettore che si sente dire noi siamo per la trasparenza, siamo per le cose giuste, per le cose semplici, quando trova una contraddizione così chiara, che è quella che tutti comprendono, cioè quando il problema è molto semplice da risolvere, tutti sì, hanno la soluzione a portata di mano, però non si capisce perché non viene risolto, il problema è molto più grave di quello che sembra, sì. Perché non è possibile che io non ho capito niente, Daniele, dal suo intervento. Daniele, mi scusi, non ho capito niente. Secondo lei il Ministero della Grazia e Giustizia, il Ministero della Giustizia, quando c'era il governo centrosinistra, doveva essere data a Di Pietro, questa sarebbe stata la soluzione di tutti i mali? No, guardi, forse lei sta estrapolando alcune cose che dico. Non è, io ho fatto Di Pietro come esempio perché in quel momento... Sì, ma quando lei mi dice che, che non c'è trasparenza, io non capisco il significato di questa frase, me lo spieghi. No, non ho detto che non c'è trasparenza, io ho detto che la chiarezza che ha millantato la sinistra nei confronti dei propri elettori, contrapponendosi invece a certi argomenti della destra, un modo di fare della destra, non è stato rispettato, perché qualsiasi elettore si è chiesto il perché di una scelta così grave, cioè non dare una... Ma quale sarebbe la scelta grave? Quale sarebbe la scelta grave? Una persona che coincide ogni tanto con un politico e un addetto ai lavori, perché non gli è stato dato? Ho capito, Daniele, ho capito benissimo, Daniele. Secondo lei il problema della sinistra è non aver dato il Ministero della Giustizia a Di Pietro? Se a lei sembra questo il problema, pazienza, ognuno trova le ragioni che trova. 19:27, vogliamo sentire dove è finito intanto Enrico Mentana, subito sostituito nella conduzione di Matrix da Alessio Vinci, corrispondente della CNN a Roma. Sentiamolo durante la trasmissione radiofonica Te la do io Tokyo di Centrosuono Sport, conduce Mario Corsi. Se, come è stato scritto, era un problema ospitare Di Pietro, non è che si può fare diversamente, non è che c'è qualcuno che nel teatro della democrazia non ha il diritto a comprare il biglietto, no? Ci deve essere posto per tutti, tanto per intenderci. Poi io ho avuto la fortuna per larga parte della mia vita giornalistica di non andare a votare, quindi di non essere etichettabile o accusabile di fare il tifo per uno o per l'altro. Però poi, ripeto, è chiaro che le cose sono cambiate nel paese, a media, eccetera, ma io... Qui Mentana dice se il problema, come sembra, tra gli altri, è stato quello della presenza di Pietro in una delle ultime trasmissioni di Matrix, beh, insomma, la democrazia è per tutti, ci deve essere spazio per tutti, ho fatto quello che ho sempre fatto. Ma dov'è finito Mentana in questi giorni? Così risponde a una domanda dell'intervistatore. Allora, che fine ha fatto il signor Mentana? Che fine ha fatto? Ha rassegnato le dimissioni da direttore editoriale di Mediaset. Mediaset con questo ha ritenuto che si concludesse il rapporto e quindi, per dirla in parole molto chiare agli ascoltatori, mi ha licenziato e quindi sono a casa. Sono a casa. Allora, D'Alema, o meglio ancora Occhetto, Largo ai Giovani, scherza un ascoltatore, Santoro, segretario del Partito Democratico, e poi ancora Salvi, un altro ascoltatore, Bersani, c'è qualcuno che punta su Bersani, diversi ascoltatori che puntano su Bersani. Grande, grande referendum tra i nostri ascoltatori questa sera, chi deve essere il successore di Walter Veltroni. Dall'altra parte del vetro Mattia Nocchi, nostro grande collaboratore, mi scrive Mourinho e fioccano altre proposte. Vorrei sentire anche, sempre al di là del vetro, il parere di Sara Spreafico e anche quello di Valeria Bernardi, che so essere un'appassionata delle vicende del Partito Democratico, sempre per farvi qualche nome naturalmente di persone che ogni sera collaborano con noi. Un ascoltatore mi scrive Blair, e questa sarebbe una bella idea. Un altro, un triumvirato: Di Pietro per il popolo, Cacciari per l'intelligenza, Soru per l'imprenditore, anzi Cacciari per l'intelligenza, sarebbe un disastro, suggerisco a questo ascoltatore. Emma Bonino, un altro, Vladimir Luxuria, c'è gente che scherza naturalmente, la hostess del Grande Fratello, segretario del PD, l'onorevole Finocchiaro sicuramente, scrive un'altra più seriamente, Clemente Mastella scherzano diversi ascoltatori, Finocchiaro come leader del PD, donna moderata saggia, Nicola da Pisa, che noia però, e ancora Renzi intervistato da noi ieri dopo la vittoria alle primarie di Firenze. Andiamo a Palermo da Giancarlo, buonasera. Buonasera. Un altro ascoltatore che è fissato. Sì, un attimo solo, Giancarlo, un attimo, si fermi. Un altro, perché non parliamo della condanna per falsa testimonianza del processo Fini? Investe un tabù nel suo programma, Sergio. No, non è un tabù. Se qualcuno vuole parlarne, ne parli pure, per carità. Ognuno sceglie gli argomenti che vuole. Basta intervenire, scrivere un SMS, scrivere una mail. Il programma lo fate anche voi. Giancarlo, dica. Dicevo, a proposito del sottosondaggio, non saprei il nome. perché secondo me dovrebbe essere un nome nuovo, assolutamente nuovo, giovane. Vedi il caso di Matteo Renzi a Firenze, che non era sostenuto da nessun partito. No, da nessun partito, non scherziamo, cioè non è che sia uno calato così dall'alto. Non è stato molto appoggiato dal suo partito, che aveva un altro candidato, quindi diciamo, secondo me è stata una candidatura improvvisa, eccetera, chiaramente aveva avuto i suoi appoggi, eccetera. A questo proposito, il mio intervento principale, non mi è piaciuta assolutamente la campagna elettorale in Sardegna, perché quando si parla di democrazia, di federalismo, eccetera, vedere una campagna elettorale che poi ha fatto il Presidente del Consiglio, dove vince qualcuno come se fosse un nuovo nepotismo, buttato lì solamente perché la faccia del Presidente del Consiglio lo garantisce, non mi è piaciuta, a prescindere dal berlusconismo o anti-berlusconismo. Ho capito. Non mi piacciono le campagne elettorali dove vince comunque non ha brillato di luce propria, ma ha brillato di luce, come dire, riflessa. Sì, Giancarlo, però questa è una considerazione che possiamo fare noi analisti dall'esterno, senza nemmeno conoscere troppo la realtà della Sardegna, perché sarebbe un'offesa a tutti quei sardi. Ma la Sardegna un poco la conosco. No, ho capito, però dico... È finita come la Sicilia, visto quello che sta succedendo. Ma io non lo so, ognuno ha le sue idee sulla Sicilia. Guardi... Io ho sentito parecchi sardi, per esempio, che l'avevano con Soru, perché non gli permette, non gli ha permesso mai, diciamo, è stato forse un po' troppo duro e puro, non ha permesso determinati espansionismi nella costruzione, eccetera. Sì. Forse però è stata una salvezza del turismo della Sardegna, se la Sardegna è quello che è. Sì, ho capito, però Giancarlo, in una novella Sicilia in questo no tempo. Ho capito, anche un ascoltatore mi ha scritto adesso che succederà, le coste sarde, la Sinara e tutto, era molto preoccupato questo ascoltatore, però a me mi sembra sia un ragionamento che non funzioni. Se Soru viene eletto, allora i sardi sono bravi, sono buoni, sono giusti, sono democratici, fanno il bene della Sardegna. Se invece votano un altro candidato appoggiato da Berlusconi, allora è il disastro, è il male, c'è il pericolo. Insomma, non si può ragionare così, secondo me. Poi è vero che Berlusconi ha fatto campagna elettorale in Sardegna, ma d'altra parte c'è un candidato del PDL, si fa politica, si fa campagna elettorale, poi come la si fa è un altro discorso. Corrado da Bari, buonasera. Referendum, ripeto, su Veltroni, se volete. Corrado. Buonasera, complimenti per l'ottima conduzione innanzitutto. Per il referendum è praticamente palese che sia D'Alema a salire sul carro. No, questa è la sua previsione, lei chi preferisce? Ma io a questo punto, dato tutto un discorso che mi sono fatto, mi va benissimo D'Alema, perché tanto io ero un elettore del centro-sinistra che praticamente è passato al centro-destra, sì, e infatti sto aiutando a fare la campagna elettorale ad un consigliere comunale qui a Bari. Va bene. No, vabbè, giusto, auguri, spiegavo anche le motivazioni. Auguri, Corrado. Io sostengo D'Alema perché tanto alla fine sono venute fuori tutta una serie di contraddizioni che secondo me hanno portato al disastro del Partito Democratico, e quindi a questo punto, siccome poi alla fine di D'Alema bene o male si sa quasi tutto, che vada D'Alema, almeno c'è un certo tipo di coerenza, perché insomma che D'Alema sia un esponente del centro-sinistra a me fa ridere, però è una mia opinione personale, secondo me D'Alema non è altro che l'altra faccia di Berlusconi dall'altra parte, però vabbè, ripeto, opinione personalissima. Vabbè. Io volevo fare il mio intervento, partiva dal titolo dell'Unità. Sì. E questo la dice tutta sull'arroganza della sinistra, e anche da tutta una serie di interventi che io sento in continuazione, che ho sentito, ora non li farò più fortunatamente, che ho sentito da parte di Veltroni. Cioè, questo, secondo me il problema della sinistra è uno solo: pensano di essere perfetti, immacolati, vergini, buonisti, eccetera eccetera. Questo secondo me è il problema, capito, Corrado, che li ha portati alla totale distruzione, quando poi alla fine due sono i casi: o abbiamo una classe politica fatiscente ma dall'una e dall'altra parte, oppure è veramente ridicolo, e i dati elettorali lo confermano, che la sinistra si propugni immacolata davanti agli elettori italiani. Va bene, d'accordo, andiamo a Brescia. Ennio, buonasera. La famosa superiorità morale della sinistra evocava, con altre parole, l'ascoltatore che ci ha preceduto. Ennio, lei come la vede? No, ma io, a parte che ho 60 anni, sono sempre stato un elettore di centrodestra, sì, e devo dire due cose. Uno, Veltroni, che mi spiace che abbia dato le dimissioni, perché è una persona che ha creduto in un progetto e ha fatto bene anche alla destra, ha fatto bene anche al PDL. Mi spiace perché nessuno ci ha creduto e ha sempre avuto contro anche i suoi più stretti vicini, e questo è un po' il problema che ha oggi il PD, che come si vede anche la sconfitta della Sardegna li sta ripagando proprio queste situazioni che hanno all'interno. Mm. Per quanto riguarda il rinnovamento, io penso che il PD deve avere un giovane, e penso che Renzi potrebbe rappresentare veramente una svolta notevole e potrebbe dare fastidio veramente al PDL. Addirittura Renzi, ma lasciamogli fare, lasciamogli provare a fare il sindaco di Firenze, è semplicemente il candidato dal centro-sinistra, ancora non ha vinto Firenze, e sembra che pure a Firenze le cose con i sondaggi non è che siano messe benissimo poi, Sì, però questo, io penso che ci vogliano dei giovani, come del resto, anche se io sono del PDL, ci vorrebbe un giovane anche, almeno in prospettiva, anche per il PDL. Bah, giovane per il PDL, con Berlusconi che vince dappertutto, mi sembra complicato. La ringrazio. Prego, andiamo a Vicenza. Mariano, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani, buonasera a tutti gli ascoltatori. Beh, intanto io sono militante di estrema destra, sicché vedrai bene la Bindi al governo del Partito Democratico, così va sotto zero e noi siamo tutti contenti. Ecco, questa è la mia opinione. Lei è contento, naturalmente, Maria. Ma mi dispiace per Veltroni, perché è una brava persona, sinceramente è una faccia pulita ed è una persona onesta, perché ce ne sono molto poche, sia a destra che a sinistra. Lei vuole la Bindi per affossare definitivamente il Partito Democratico, ma non sarà accontentato, perché la Bindi non diventerà segretario del Partito Democratico, per cui glielo dico subito. Sì, dottor Cruciani, niente. Dopo, la seconda mia questione era il fatto su tutti gli stupri che si sentono in giro in questi giorni. Sì. Come siamo stati stanchi di sentire proposte e di sentire unicamente cavolate sia da destra che da sinistra, con il nostro modesto apporto di militanti, metteremo in atto dalla settimana prossima un servizio nel nostro paese e in 2-3 paesi limitrofi, un servizio di accompagnamento per le signore che lavorano fino alle 10 in 3 fabbriche qua della zona. E per chi lo richiederà, a un numero verde che adesso attiveremo qua per la settimana prossima assieme con una casella postale, attiveremo per chi lo desidera un servizio di accompagnamento fino a casa. Servizio non armato, spero. Servizio. No, armati di buona volontà, dottor Cruciani. Dopo, siamo quelli che attuano questo servizio, siamo tutti sopra il 1,90 m, sicché bene o male non abbiamo di questi problemi. Comunque, in ogni caso, la giustizia sommaria è sbagliata, come sono sbagliate, meno male. Secondo me le ronde padane fanno ridere. Io parlo, le ripeto, da militante di estrema destra della fiamma tricolore, e sinceramente è giusto fare piuttosto che continuamente voi volete fare questa protezione per le signore. Va bene, insomma, può essere una cosa positiva, certamente. Però le ronde armate no, Mariano, se ne tenga lontano. 19:45, abbiamo in linea Stefano da Milano, Raffaele dalla provincia di Cagliari, Luigi da Napoli, Giovanni da Milano e altri ancora. Dove andiamo? Andiamo a Napoli. Luigi, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io sono elettore di centrodestra, però moderato, diciamo. Pronto? La sento, dica Luigi. Sì, diciamo, io in certo modo sono scontento, cioè, mi dispiace che Veltroni se ne sia andato. Il motivo principale è questo, perché Veltroni veramente è stato un innovatore. Cioè, già il fatto che corre da solo, diciamo, è stata proprio una cosa molto molto importante, è proprio innovatrice, diciamo, e ci ha liberati dall'estrema sinistra. Lei fa una considerazione importante, cioè dire Veltroni aveva fatto una scelta molto coraggiosa, quella di scegliere di andare da solo, poi in parte rinnegata per la questione dei radicali, se vogliamo, per Di Pietro. Certo, tutto questo è stato compromesso poi sia da scelte successive che da quello che è accaduto. Una parte del partito invece vuole ricomporre le vecchie alleanze, quello che si sta sentendo per esempio sulla candidatura di Bersani è più o meno questo. La ringrazio, andiamo in provincia di Cagliari. Raffaele, buonasera. Buonasera, mi sente? Sì, la sento, dica. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Senta, io sono un sardo che ha votato giusto appunto ieri, quindi vorrei chiedere a quel signore siciliano che ha preso che ha detto delle cose poi non precise. Comunque, vorrei dire il mio parere. Senta, io non sto con Veltroni, però penso che sia ingiusto, ecco, le dimissioni di Veltroni a causa di questo fallimento elettorale, perché la causa vera è Soru, cioè non può essere addossata questa responsabilità a Veltroni, perché nella sua politica devastante che ha fatto Soru, che ha creato disoccupazione, ha mandato veramente in tilt il sistema. No, ma Raffaele, io credo che il suo intervento sia interessante per questo, al di là poi dell'analisi del governo Soru, che è stata fatta però dai sardi in maniera direi definitiva. Io credo che ci sia una sottovalutazione in tutte le analisi di queste ore dell'elemento Sardegna. Nessuno considera che cosa? Che in fin dei conti c'erano i sardi a votare, non è che si votava da altre parti, e c'era una politica di un governatore sotto esame. Quello è stato, no Raffaele? Guardi che Soru non è riconoscibile nel Partito Democratico, sia come ideologia e sia come politica, Tenga conto di questo, è un uomo che si è aggregato a quel carro, ma poi di fatto non è un uomo del Partito Democratico. Quindi voglio dire, la politica di Soru è stata scellerata, perché lui della sua politica non ha messo in discussione con nessuno, ha fatto ciò che voleva in Sardegna. Quindi tutti gli altri hanno solo messo la faccia. Poi sì, volevo dirgli un'ultima cosa, se me la permette naturalmente. Da elettore di centrodestra dico, lasciamo Veltroni così vinciamo sempre. Va bene, Raffaele. Buonasera, grazie a lei. Ci sono naturalmente molte persone che giocano sul nostro referendum, sul nostro sondaggio, chi dopo Veltroni, per esempio Giuseppe dice proviamo con Berlusconi come segretario. Alessandro da Lucca, buonasera. Buonasera a lei, Cruciani. Dica. Ma sento, se si deve scherzare ci si può mettere Mastella, ci si può mettere Bindi, ci si può mettere... Penso che l'unica persona di spessore un po' che si è definita in questi periodi e che si è caratterizzata, penso sia la Finocchiaro. Non ho mai considerato un leader Veltroni, perché onestamente di leader di centro-sinistra che possono contrastare Berlusconi non ho mai visto in questi ultimi anni, ho visto solo una cozzaglia di gente, quindi presumo che Veltroni peggio di così non poteva fare, presumo che il Partito Democratico possa tutto sommato avere tutto da guadagnare e niente da perdere. L'unica cosa, ecco, succedesse la stessa cosa nel centrodestra, che va via Berlusconi o che manchi Berlusconi, sarebbe un grosso problema trovare un sostituto all'altezza di spessore. Per il centro-sinistra direi la Finocchiaro come persona, come spessore, che può avere un carattere e una conoscenza e soprattutto essere un po' al di sotto delle parti di tutte le polemiche che investono la politica e i politicanti. Tutto qua. Va bene, grazie Alessandro. Stefano da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera. Dica. Ai tutti gli spettatori. Ma io ho chiamato perché volevo spostare un po' l'attenzione sul discorso Mills, perché a me personalmente la notizia mi sembra importante e grave. Finalmente, alla fine, abbiamo un tribunale che ha sancito una verità, che c'è un corrotto, e poi la deduzione che faccio io è che se c'è un corrotto c'è anche un corruttore, che quindi questa sentenza scoperchia un po' un modus operandi del nostro Presidente del Consiglio. Sì, è una sentenza di primo grado. È una sentenza di primo grado, Stefano. Ecco, sì, certo, è una sentenza di primo grado, però politicamente... No, siccome lei ha detto abbiamo scoperto una verità, c'è una sentenza di primo grado. Le verità già è difficile delinearle dopo varie sentenze, certo. Figuriamoci dopo una sentenza di primo grado. Certo. Comunque. Senz'altro è un punto fermo comunque... punto fermo che si capisce anche che Berlusconi temeva questo processo, che ha scritto che appunto c'è un corrotto, c'è un corruttore, una cosa ancora più grave, perché la corruzione riguardava altri processi in cui era coinvolto. Mi sembra che comunque politicamente le forze di opposizione dovrebbero insistere, perché la cosa a me sembra gravissima. Questo volevo... condividere con secondo lei. Secondo lei l'opposizione dovrebbe montare su questa storia della condanna? Secondo me l'opposizione ha altre cose cui pensare in queste ore. Purtroppo sì, è anche stato fortunato il Presidente del Consiglio, perché l'opinione pubblica, soprattutto del centro-sinistra, è tutto sbilanciato sulle elezioni in Sardegna, su Veltroni che si è dimesso. Ma non fa bene il partito di Di Pietro a marcare su questo punto, perché penso che comunque in qualsiasi anche paese una condanna evitata tramite una legge per una corruzione che a catena fa coinvolge altri processi da cui è uscito, insomma, appunto tramite questa corruzione, se ne potrebbe quantomeno a livello di opinione pubblica parlare un po' di più e essere un po' più, diciamo, arrabbiati, ecco. Come sono arrabbiato io. D'accordo, Stefano, io vorrei sentire se altri sono arrabbiati. In realtà, come sapete, è stato condannato Mizza, non è stato condannato Berlusconi, perché Berlusconi, la posizione di Berlusconi è stata stralciata dopo il lodo Alfano, e naturalmente uno dei motivi per cui è stato introdotto il lodo Alfano, anche in maniera piuttosto aperta, limpida, chiara, se volete esplicita, per alcuni drammatica e per alcuni negativa, è stata proprio la possibilità di essere condannati nella vicenda Mills. Giovanni da Milano, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, io volevo intervenire sul fatto delle dimissioni di Veltroni. Dunque, secondo me il candidato del prossimo partito del Partito Democratico sarà Di Pietro, col beneplacet di D'Alema, anche perché D'Alema è stato sempre il segretario ombra del Partito Democratico. Senta Giovanni, però l'ipotesi di Pietro, che non appartiene nemmeno al Partito Democratico, come candidato del Partito Democratico per diventare segretario col benestare di D'Alema, mi sembra al di là della fantapolitica, forse è un suo auspicio, no, non lo so, mi sembra un'ipotesi fantasmagorica. Sì, sì, sì, è vero. Però possiamo parlare anche di ipotesi fantasmagoriche, per carità, va benissimo. Certo, anche perché Veltroni, mi dispiace, sì, era partito col piede giusto, essendo diciamo più democratico, più in una posizione più moderata rispetto a D'Alema, ecco, praticamente è finito con la linea oltranzista dei falchi della sinistra, cioè buttare giù, infangare sempre lo stesso nome, sempre Berlusconi. La gente ormai si è stufata di questa gente qua. Cioè, allora parlate di programmi, parlate di altro, non parlate sempre delle stesse cose. Ecco, il falso moralismo si è fatto praticamente trascinare dalla vecchia ideologia, cioè criminalizzare sempre una persona facendo campagna elettorale sempre sulle stesse cose. Quindi la gente, premetto che io non sono un elettore di centro-sinistra, quindi cioè, a me dispiace, perché vedevo in Veltroni l'unico candidato moderato, l'unico candidato in cui veramente la... Qual è stato l'errore di Veltroni secondo lei, Giovanni, per riassumere? Ma secondo me è stato quello di dare troppo voce a Di Pietro, giustizialista, cioè bloccare tutto quello che fa la maggioranza in questo periodo di crisi, cioè questo ha affossato veramente il centro-sinistra. Certo che questo è un paradosso, Giovanni, la ringrazio, perché insomma in questo momento i consensi del Partito Democratico scendono mentre quelli di Veltroni salgono. Bene, alle 19.55 800 24 00 24 ancora ascoltatori sulle notizie del giorno, che sono sia la vicenda Mills sia le dimissioni di Veltroni. Francesco da Torino, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Dica. Ma dunque, io sto facendo una riflessione, non so se perché sono andato in iperventilazione, perché io sono uno che corre spesso, magari sentivo la radio, stavo correndo, ho detto ma forse una cavolata. Provo a dirlo, secondo me Berlusconi dovrebbe a questo punto fare un patto col diavolo, Lucifero, Belzebù, chiamiamolo come volete, perché se gli dà la vita eterna o comunque gli dà due secoli di vita, governa solo più lui. Cioè, non credo che abbia rivali in tal senso, a meno che non riesca a fare una legge dove si possa mettere, come accennava un ascoltatore, anche all'opposizione. Non ho capito, Francesco, è ancora in linea? Questa sera siamo partiti male e continuiamo ad andare male. 19.56 800 24 00 24, andiamo a Milano da Marco. Buonasera. Buonasera. Buonasera Crociani. Dica. Io volevo fare una considerazione così un po' a tutti i nostri cari elettori, tutti gli italiani, riguardo a questo nuovo dispositivo che hanno messo al Parlamento in questi giorni. E non ho avuto modo stamattina di comprare tutti i quotidiani, però mi sembra che questa notizia stamattina sia stata molto bypassata. Cioè, voglio dire, è palese. Sì, Marco, se ne parla da mesi. Adesso magari lei non sarà, per sua fortuna, un lettore attento di quotidiani, eccetera, ma sono almeno sei mesi che. Sono sei mesi che. Se ne parla da mesi che dovevano decidere cosa fare. Sì. Però oggi sappiamo che noi spenderemo 1-2 miliardi per mettere un dispositivo in un Parlamento, sì, dove chi ci rappresenta deve essere onesto. Quindi la palesità di queste persone che ci rappresentano sulla loro disonestà. Cioè, oggi qua non ne parla nessuno. Cioè, questo è il nostro paese, questa è la gente che l'Italia discute su chi sinistra o destra. Sì, ho capito. Marco, ripeto, non è una notizia di oggi. Questa delle impronte, insomma, del dispositivo per evitare i pianisti, il fatto che un parlamentare voti per un altro, è roba vecchia, e abbiamo già detto più volte, lei si indigna ancora oggi, lo faccia pure, che è uno scandalo il fatto che un Parlamento, per mettere in riga i suoi parlamentari e per non consentire scherzetti o trucchi, debba essere costretto a spendere un sacco di soldi. È vero, vogliamo insistere su questa cosa? No, vogliamo palesarla, siamo liberi. Ma vogliamo palesarla, ma è mesi che vogliamo ne parliamo. Vogliamo palesarla, è come le lancio una provocazione. Ecco, allora, lanci. Il discorso degli immigrati, dell'immigrazione, che io sento tanti pareri, no? Sì, Sud, sì. Lega. Allora, il problema non è l'immigrazione, il problema è di una nazione che arriva in ritardo su tutto. Arriviamo in ritardo su ogni cosa. Bene, 21 minuti, andiamo ad ascoltare i titoli dei TG 800 24 00 24. Iniziamo con il TG5. Trionfo del centrodestra in Sardegna, Ugo Cappellacci nuovo governatore. Tracollo del PD, Walter Veltroni si dimette, basta farsi del male, me ne vado per salvare il partito. Fuori dalla crisi con la collaborazione di tutti, nuove regole per la finanza, senza protezionismo, così Berlusconi nell'incontro con Nancy Pelosi, speaker della Camera americana. A Chioggia un 13enne accoltella alla schiena il professore di musica dopo un rimprovero. Colpito con un coltello da cucina, ora è fuori pericolo. Dalle intercettazioni di medici e infermieri della clinica Santa Rita di Milano, in retroscena dello scandalo che incastrerebbe gli imputati. Sono su internet le nuove vie della droga. La vendita di stupefacenti avviene sempre di più sul web ed è praticamente senza controlli. Dopo la prova TV nessuna squalifica contro Adriano per il gol di mano nel derby. Per il brasiliano beneficio del dubbio sulla volontarietà del gesto. Bene, alle 22 minuti andiamo a sentire i titoli del TG1. Dopo il trionfo del PDL in Sardegna, il segretario del PD Veltroni si dimette. Incertezza nel partito, forse un congresso. Netta la vittoria di Cappellacci nell'isola e la vittoria di Berlusconi, esulta il centrodestra, premiata l'azione di governo, il premier al Quirinale. A Chioggia 13enne accoltella alla schiena il professore durante la lezione di violino, mi aveva rimproverato, l'uomo non è grave. I fidanzatini aggrediti a Roma, c'è una rosa di nomi, due i romeni sospettati, forse sono già all'estero, si indaga sui complici. Niente Olimpiadi per chi ha una protesi al seno, succede a una pugile inglese, ex modella, ma la box femminile ha sempre più successo. Sanremo al via nel segno di Mina, proposta senatrice a vita, attesa per Benigni, subito la gara, con tre eliminazioni in diretta al TG1. Va bene, va bene. Senatrice a vita, chi è che ha proposto questa cosa? Mina, senatrice a vita. 23 minuti, se ne sentono di tutti i colori, la 7. La sconfitta in Sardegna travolge il Partito Democratico. Veltroni lascia, basta farsi male, dice mi dimetto per salvare il PD. Si va verso il congresso anticipato. Il PDL vince le regionali in Sardegna ed è il primo partito dell'isola. Ugo Cappellacci batte il governatore uscente Soru con 9 punti di distacco. Condanna a 4 anni e 6 mesi per l'avvocato David Mills. Per il Tribunale di Milano fu corrotto da Silvio Berlusconi per testimoniare il falso in un processo. I legali di Mills, sentenza contraria alla logica, l'impugneremo. Il gol di mano di Adriano era involontario. La prova TV assolve il bomber interista. Non c'è la percezione, dice giudice del calcio, che il gesto fosse finalizzato. Va bene, alle 20:04, 800 24 00 24, abbiamo con noi Vittorio Sgarbi, che salutiamo. Buonasera, non c'è più, è caduta la linea, adesso la riprendiamo. Va bene, insomma, stasera va così, che dobbiamo fare? Marco da Milano, allora, che ci voleva dire? Cosa volevo dire? Volevo dire sul discorso che noi abbiamo... Vabbè, ma stasera va così, su, non funzionano le telefonate, non funziona nulla, ci arrendiamo, forse finiamo prima. Dario da Torino, buonasera. Buonasera. Pronto? Sì, sente? Prego, vediamo se continuiamo su questa strada oppure proviamo, il suo telefono funziona meglio. Dario, no, niente, dica. Io sono stato anticipato prima e volevo parlare di Mills e sì, adesso ho sentito anche i titoli del telegiornale e finalmente il terzo l'ha raccontato. Sulla 7, sì, no? TG1 e TG5. Niente, no? Quindi era una notizia comunque importante secondo me. È vero che il primo grado ce ne saranno ancora da vedere su questo processo, però il fatto è che ho trovato strano questa coincidenza che i problemi della sinistra in questo momento sono che è uscito Veltroni, ecco, invece che al posto di potersi dedicare a far intervenire Berlusconi in Parlamento perché parli di questa cosa, perché in effetti un po' di colpevolezza c'era pure lui, cioè, insomma, se è lui che ha corrotto, è vero che non può essere processato, ma un minimo di dignità, per Dio, no? Scusi? Sarebbe interessante sentire cosa dice in Parlamento, ecco, un'interrogazione parlamentare non sarebbe male, ci fosse, tutto lì. E nient'altro, ecco, sono comunque un po' indignato perché questo Berlusconi ne fa di tutti i colori e riesce sempre a farla franca, anche questa volta la farà franca e bene. Va bene, teniamo, l'abbiamo votata, quindi e che vuole fare? Così cioè, la gente lo vota, non si riesce neanche a processare. Uno sarebbe anche bello poterlo processare e vederlo uscire innocente per una volta su tutte, no? E non è la prima volta che succede nei suoi processi e quindi adesso non lo si può fare, aspettiamo il prossimo. Va bene, dai, aspettiamo il prossimo, certo. Aspettiamo il prossimo processo, che vuole dire lei? Aspettiamo dopo la Corte Costituzionale, magari dice che il lodo Alfano è incostituzionale. Ecco, infatti, dico, aspettiamo il prossimo, anche il prossimo che combinerà, perché tanto ne combinerà qualcun altro, prima o poi, lo conosciamo tutti quanti bene. Sì, benissimo, certo. Lì. Va bene, Dario, la ringrazio. 27 minuti, andiamo a Grazia da Roma, buonasera. Buonasera, finalmente. Eccoci qui, dica pure. Allora, io ci avrei diverse cose da dire, ma mi limito a poche. Sì. Intanto vorrei contestare il fatto che la gente continua a puntare il dito su una persona che si è accollato tutti i problemi dell'Italia creati da altri in 40 anni. Sì, vabbè, però grazie, non la metta così, perché questa non siamo, la campagna elettorale in Sardegna è finita. Parla con una sarda. Anche lei è a conoscenza che la campagna elettorale è finita in Sardegna, l'ha fatta Berlusconi, non ci si metta lei a fare campagna elettorale per Berlusconi, che non è il caso. Io penso che il signor Veltroni è successo quello che è successo proprio perché invece di costruire continuava ad andare contro a qualunque cosa. Siccome ci sta la maggioranza della popolazione italiana che ha votato, ha scelto, sì, è inutile che continui a buttare giù i castelli che costruiscono gli altri. Costruisci, la gente avrà più fiducia in te e magari qualcuno che si è spostato da una parte ritornerà dalla parte opposta. Può darsi, grazie. Adesso non so come tradurre queste sue parole, però lei dice che è troppo anti-berlusconismo nella Veltroni dopo le elezioni? No, assolutamente, perché lui diceva Berlusconi A, lui assolutamente B, anche se magari andava bene A e B. Capito? Era una lotta a persona, ma non va bene così, perché in Italia abbiamo bisogno di qualcosa e di qualcuno che costruisca, mo che si chiami Berlusconi o che si chiami Valerio Rossi, per me è indifferente. Adesso c'è lui, facciamogli fare qualcosa. Va bene, grazie. Andiamo a Firenze. Alessio, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Io volevo parlare delle dimissioni di Veltroni. Prego. Cioè, io non mi stupisco più di tanto, cioè, come è successo anche, insomma, tra virgolette, il governo Prodi, quell'altro, cioè, che qui, cioè, casca, diciamo, qui casca un soggetto politico, cioè, una leadership, cioè, per mancanza di, secondo me, per mancanza di autorevolezza del personaggio. Cioè, io me l'aspettavo, cioè nel senso, tra virgolette, perché comunque non mi sembra, cioè non mi sembrava, non so, cioè più altro secondo me manca proprio il soggetto politico o Partito Democratico. Non riesco a capire bene cosa rappresenti. E beh, Alessio, mi sembra la ragione di fondo questa qua, poi alla fine della situazione che si è venuta a creare. Qui è un discorso molto profondo, molto complicato, perché già a partire da come è stato formato questo partito, e più che altro anche perché non riesco a capire dove si orienta, se è un partito di sinistra, se è un partito di centro, perché se fa opposizione, non riesco a capire bene che ruolo ha nel Parlamento. Cioè, anche qui ora si fa il nome della Finocchiaro. Scusi l'emozione, sono un po' non sa. Cioè, non vedi Finocchiaro. Cioè, Finocchiaro come anche lui. Cioè, la Finocchiaro ha perso le elezioni contro Lombardo. Sì, anche rovinosamente, direi. Rovinosamente. Cioè, in qualsiasi altro... Pronto? Sì, la sento. Cioè, in qualsiasi altro paese, cioè, tra virgolette, una persona che perde va a casa. Cioè, qui invece cosa gli si dà? La presidenza, mi sembra, al Senato del Partito Democratico. Sì, del gruppo del Partito Democratico, come nella passata legislatura. Belli ha perso le elezioni del sindaco di Roma, comunque ci si ritrova comunque sempre nel Parlamento. Beh, c'è anche da dire, Alessio, che Berlusconi ha perso per due volte le elezioni e poi si è ricandidato. Non è questione di... credo solamente del fatto che si perde e poi si deve andare a casa. Credo che ci sia un problema di leadership intorno al Partito Democratico, anche di tipo di partito, di programma, che Veltroni alla fine non ha saputo risolvere. La ringrazio. Roberto da Torino, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani, piacere di sentirla. Ieri ho assistito, come tutti, a questa ennesima debacle della sinistra, se possiamo chiamarla così. Purtroppo è una storia che secondo me arriva da lontano, come lo slogan dell'allora Partito Comunista, che non ha fatto i conti con l'evoluzione della storia e della politica già dal 94, la meravigliosa macchina da guerra di Occhetto. E quello che mi preoccupa è il fatto che manca un'opposizione seria e costruttiva, che non si limiti all'antiberlusconismo di facciata o di sostanza, ma vada oltre e faccia delle proposte come un vero partito socialista europeo, come abbiamo esempi in altre parti. Qui in Italia non è il problema Berlusconi, chi si oppone a Berlusconi senza farlo sceriffo alla Di Pietro, ma con proposte serie e sostenibili, con una leadership credibile e soprattutto con facce ed energie fresche e nuove innovative, cosa che non è successa nel PD. E questa diarchia tra cattolici e gente di sinistra non funziona. Anche sulle elezioni europee ci sarà il dubbio dove ci andranno a sedere, e non è pensabile che l'Europa cambi in funzione delle desiderate del DS. E quindi, ho capito, Roberto, la ringrazio di questa sua analisi, mi sembra anche corretta. Andiamo a Roma, Giuseppe, buonasera. Buonasera Luciani, io volevo esprimere il mio parere su chi potrebbe essere il nuovo leader del PD. Lei ha già dato una risposta, però io sono sempre più convinto, sia Veltroni, D'Alema, alla fine è chiaro, sono ottime persone, ottimi politici, però in questo momento io ritengo che chi possa battere Berlusconi è soltanto Di Pietro, perché lui è l'unico che conosce vita, morte e miracoli. È come lottare un peso piuma con un peso massimo, e io ritengo che Di Pietro potrebbe essere la soluzione ideale. Tutta la sinistra deve farsi da parte, deve lavare i panni sporchi in famiglia, non fare come ha fatto fino adesso, dire sempre la verità a tutti. Pertanto questo è il mio pensiero. Sì, Giuseppe, a me sembra un'ipotesi, naturalmente non stiamo parlando della leadership del Partito Democratico, stiamo parlando di un eventuale sfidante di Berlusconi. Lei dice il miglior sfidante in questo momento sulla piazza, non c'è dubbio, è Di Pietro. Esatto. Ma è una cosa che lei spera oppure fa un'analisi della realtà? No, io spero, perché come dicevo, Veltroni, D'Alema, Finocchiaro ed altri non sono in linea con i tempi. Cioè, per combattere Berlusconi sì, non è un politico, cioè l'unico che l'ha battuto è stato un grande manager che era Prodi. Di Pietro non è un politico, non è un grande manager, però tutto sommato si fa capire dalla gente, dal popolo, dal pubblico di tutti i giorni, e quindi ritengo che lui sia in questo momento, cioè la sinistra aveva fatto un accordo, poi l'ha lasciato perdere, ma in questo momento io ritengo che l'unica persona sia proprio Di Pietro. Va bene Giuseppe, la ringrazio. Allora, abbiamo ripristinato, credo, la linea con il sindaco di Salemi, che è Vittorio Sgarbi, come sapete. Sgarbi, buonasera. Eccolo, buonasera. Eccoci qui. Allora Sgarbi, innanzitutto subito una domanda sul tema del giorno. Queste dimissioni di Veltroni sono arrivate inaspettate per lei oppure era nell'aria? Le dimissioni no, ma certo l'avvicendamento con i fallimenti, a partire dal momento in cui io mi sono candidato a segretario del PD, paradossalmente, perché io ho difeso per primo e solo, a parte anche Del Turco, l'ho fatto con Del Turco, ma soprattutto D'Alfonso, sì, solo dopo sì. 15 giorni di fronte a un reato impossibile, c'è uno che ha preso un aereo di un amico, Veltroni ha detto è stata una cosa scandalosa. Dico, non è possibile che uno non si fidi dei propri. Se tu sei convinto che un uomo che ha lavorato con te, come D'Alfonso, è un uomo d'onore, più nobile della parola, devi difenderlo. Quindi da lì ho cominciato a capire che c'era una specie di dipietrismo obbligatorio, cioè di certezza del colpevole invece che dell'innocente, che doveva portare Veltroni a un re dell'azione, che poi è stato determinato prima ovviamente dal fallimento in Abruzzo, poi da questo in Sardegna, due regioni perdute. Se avesse candidato D'Alfonso invece che quell'altro di Pietro, imposto con la forza da Di Pietro, che è l'elemento di fine della democrazia, è proprio l'elemento chiave che introduce ignoranza e mancanza di democrazia nella politica, contrariamente a quello che sentivo prima, D'Alfonso poteva vincere le elezioni. Ma non è possibile che non lo fa candidare Di Pietro, dopodiché sì. appena perse le elezioni lo arrestano, insomma, veramente, e Veltroni si fida dei magistrati, lasciamo perdere. Senta, che succede adesso secondo lei? Insomma, lei un po' la politica la conosce, che può succedere all'interno del Partito Democratico? Succede che D'Alema, che è più intelligente e più furbo, ha già introdotto, evidentemente subodorando, la sconfitta sarda, a forza dei sondaggi, o aveva intuito dove andava a finire questa contrapposizione del tutto scellerata fra Soro e Berlusconi, perché Berlusconi ha fatto, anche essendo amico, di accettare di contrapporsi a Berlusconi, ed è finito come è finito. A questo punto probabilmente l'introduzione 3-4 giorni fa di Bersani era un avviso che, ove le cose fossero andate in questo modo, c'era un uomo pronto, che non più giovane, perché è più giovane Veltroni, come sappiamo, sì. Ma è meno usato, come era Segni, è un vecchio ex comunista, giovane però rispetto alle funzioni che ha svolto, e posso dare una cosa che nessuno sa, comincia per Ber come Berlusconi, e quando Berlusconi cercava un... aveva bisogno di un segretario, un coordinatore, no? Al posto di non so chi, io in Parlamento lo feci parlare con Bersani, e lui disse magari averne come Bersani, magari averlo con noi. Quindi il fatto che già il Cavaliere avesse guardato con attenzione a Bersani, forse appunto, poi è pelato come Berlusconi, va benissimo. La cosa che però credo io è che l'orrore della politica sia più oltre, cioè quando per scimmiottarsi l'un l'altro, Berlusconi o Veltroni, o Veltroni e Berlusconi, prima Veltroni fa il PD, quell'altro fa il PDL, sì. Due partiti senza senso, uno Popolo della Libertà, tutti siamo popolo, l'altro Partito Democratico, tutti siamo democratici, hanno pensato che occorresse fare due blocchi. Sì. Se è riuscito a Berlusconi, pur dopo che l'aveva aperta questa strada per Veltroni, non è detto che è riuscito dall'altra parte. Ah no, certo, certo. Proverei una cosa molto saggia, fare DS e Margherita separati ma alleati, e questo forse non lo faranno, ma è l'unico modo per recuperare voti. Senta, d'altra parte Bersani vuole tornare a un vecchio operaismo, cerca alleanze con la CGIL, insomma non mi sembra più il Bersani delle liberalizzazioni, mi sembra un Bersani molto più politico, molto più pragmatico, no? La sinistra, anche sulla questione europea aveva ragione D'Alema, andava fatto tutto senza sbarramento per dare fiato ai più piccoli. Comunque se il modello Ulivo o comunque sì. Un centro-sinistra vero è più forte del Partito Democratico, è perché le anime vanno rispettate. Come vedi, i radicali non riescono a star lì dentro, sono sempre lì che rompono i coglioni, e la Margherita non trova la Binetti. Ora a questo punto si abbia il coraggio di dire quello che è riuscito Berlusconi, pur copiando Veltroni, sì. non riesce al centro-sinistra. Non è detto che riesca dall'altra parte, quindi l'altro è stato capace di mettere insieme, sia pure anche lui con molte difficoltà, AN e Forza Italia. D'altra parte non ci riescono e si rassegnino. Non è che se hanno un partito in più, ma alleato fortemente con l'altro, il popolo si stupisce. Il popolo è contento che vinca il centro-sinistra, come abbiamo sempre detto, Cossiga ed io, con il trattino. centro-sinistra, che è la posizione di D'Alema, non il PD. Senta Sgarbi, andiamo a cose più frivole per modo di dire, perché sono in realtà le cose di cui parla la gente ogni giorno nei bar, e noi puntualmente le trasmettiamo anche alla radio, perché questo poi bisogna fare anche per fare un minimo di ascolti. Allora, il milione di euro a Bonolis, molti si sono scandalizzati. In realtà io so che lei non la pensa come me, io penso che insomma l'anno scorso si è dato un milione di euro, credo la RAI l'ha detto, a Baudo come direttore artistico. Quest'anno, nonostante le richieste erano più esose, pare, di Bonolis, più o meno la stessa cifra. Dov'è lo scandalo? Perché c'è la crisi? Bonolis, perché c'è la crisi? No, voglio dire, mi sente? La sento, la sento. Mi sta sulle palle Bonolis, quindi sono contrario al fatto che Bonolis prenda più di 10.000 euro che prende, come dovrebbe prendere per il suo valore reale. Però mi pare più scandaloso che prenda 2 milioni all'anno, o quanto sia una cifra analoga, Fazio, e mi pare più scandaloso 6 milioni Benigni. Cioè è strano che questi rappresentanti della sinistra, sì, abbiano questa necessità di essere molto pagati, cosa che naturalmente prova il loro merito, ma non mi sembra che siano i soli che possono meritare di essere pagati. Per cui Bonolis, che non sappiamo come la pensi, forse un po' meno di sinistra degli altri due, in fondo è stato pagato meno. Per Sanremo, per aver lavorato non 8 mesi come dice, ma forse 2 mesi o 2 mesi e mezzo, appare effettivamente una cifra superiore ai suoi meriti, non superiore in assoluto a quello che si può pagare chi vale. Sì, sì. Per cui mi pare che tutta questa materia scopra una sinistra che viene pagata in maniera molto profumata, pur continuando a fare le battaglie. Cioè, come fa a spiegare che per 4 uscite Briglia ha preso 6 milioni di euro? Voglio dire, certo, bravissimo. A me poi, tra l'altro, la sua lettura è sempre sembrata molto carente, almeno sul piano della punteggiatura, ma che debba valere ogni lettura in televisione 1,5 milioni, insomma, non sarei così felice di dichiararmi di sinistra se avessi emolumenti di quel genere. Preferirei dichiararmi agnostico, dice, sono uno che guadagna molto, ma tutto, quindi da questo punto di vista ho un moralismo che è legato alle posizioni. Bonolis perlomeno non ha mai dichiarato di essere un uomo del popolo, e quindi questa cifra è semplicemente troppo grande per i suoi meriti, ma nel mercato in assoluto ci sta, ci sta, certo. Una sua logica. Senta, mi spiega in conclusione del suo intervento che è successo tra ieri e oggi sulla vicenda dell'eolico? Che ho avuto ragione, come tutta la vita che ho ragione, quando cominciai a attaccare. Beh, adesso non esageriamo, tutta la vita. No, nel senso che dico le cose prima, cioè è chiaro che la mafia dov'è? Non è in quella logica di una antimafia professionale, professionistica, che la deve vedere sempre nello stesso modo. Ho detto a Rita Borsellino, a tutti questi, la mafia è nell'eolico, perché lì c'è la commistione fra potere politico, potere economico e potere criminale. Ed è venuto fuori questo. Io ho fatto le mie denunce a Marsala per bloccare i prossimi parchi. Questo è il parco in cui io sono andato a protestare 3-4 mesi fa, e in televisione si è visto, con il sindaco Crocetta di Gela, sì, uomo di sinistra, indicando che c'era la mafia. Ed è proprio quel parco eolico orribile. Poi tra l'altro l'orrore è furto sistematico alla comunità europea, perché nessun impianto eolico in tutta Italia produce quanto ha promesso. Cioè la verifica andrebbe fatta a posteriori, non solo impedendo. Vabbè, adesso non è che la mafia è in tutti i progetti dell'eolico, in quel progetto lì in Sicilia si è scoperto. Quando noi, non so come sia in Molise e altrove, ma come sia, ma certamente una cosa che costa 1,5 milioni di euro per ogni palo, e tu dai 200.000 euro per tutti i pali ai sindaci, ha un margine tale che se non si mette la mafia lì, non vedo cosa dovrebbe fare. Mi pare intuitivo, e certamente più lì che in tutte le altre forme arcaiche, talché io ho detto oggi che il nuovo simbolo della mafia non è la coppola, ma sono le eliche delle paleoliche. grazie a Vittorio Sgarbi, buona serata. Grazie a voi, molto. 20 e 27, la questione dell'eolico in Sicilia, che è scoppiata con questa inchiesta sulla mafia nel business delle pale eoliche, come ha detto Sgarbi. Andiamo a sentire Raffaele da Roma. Raffaele, dica. Ecco, buonasera, dottor Cruciani, le volevo soltanto rilevare una cosa, ma non si parla dell'UDC che è riuscito ad arrivare al 9,5% o al 10%, visto la proposta che ha fatto D'Alema... Ci credo Raffaele che non si parla dell'UDC, non è che possiamo metterci a parlare del voto dell'UDC in Sardegna. No, dal punto di vista politico, secondo me, sì, quello che ha detto D'Alema dicendo che portando di più verso sinistra, che ha creato, per quanto riguarda i moderati, perché io essendo stato uno che ha votato per il centro-sinistra, ma per il centro se per la sinistra, sì, abbastanza sbilanciato. Adesso questo dato dell'UDC sembra che la gente moderata che fa parte una volta la Democrazia Cristiana, Margherita, sì, sì, è un po' più portata ad andare verso il centro, cioè creare veramente, perché il centro adesso è tutto sbandato, non si capisce più niente. Sì, guardi Raffaele, certamente la questione dell'alleanza del Partito Democratico è fondamentale come questione, perché una parte del PD pensa all'alleanza con l'UDC, che però sappiamo Di Pietro cosa ne pensa dell'UDC e intanto Di Pietro è alleato dell'UDC. Una parte del Partito Democratico dice che la sinistra radicale basta, abbiamo già dato, e però D'Alema pensa anche alla sinistra radicale. Insomma, è un gran pastrocchio, no Raffaele? C'è un po' di confusione, c'è tanta confusione che rende tutti quanti, diciamo, chi ha creduto nel discorso del Partito Democratico, veramente un attimino proprio io capisco questa cosa qui, Raffaele, lei evidentemente ha creduto nel progetto e continua a credere forse nel progetto del Partito Democratico, ma insomma dove va? Prima si è detto da solo e poi non è stato da solo perché c'era Di Pietro, poi c'erano in parte i radicali, e poi qualcuno ha cominciato a dire a un certo punto cerchiamo l'alleanza con l'UDC, e una parte di dalemiani vogliono ricucire con la sinistra estrema e dunque riproporre il vecchio Ulivo. Io capisco lo sconcerto e forse anche qui il risultato elettorale può essere spiegato in questo modo. Eccoci qua, andiamo a Milano. Luca, buonasera Luca. Sì, buonasera dottor Cruciani. Dica. Allora, io volevo ritornare all'argomento sulle dimissioni di Veltroni. Sì. Allora, parlando di fantapolitica, come tanti hanno già fatto, mi auspico dai lettori di centrodestra che arrivi Di Pietro, anche se penso che sia veramente fantapolitica. Sì, ma Di Pietro non è del Partito Democratico, dunque di che parliamo? Allora, parliamo di Bersani. Io penso che il prossimo sia Bersani, che penso che sia la fotocopia di Veltroni, ma per il centro-sinistra, e dico anche per il centrodestra, perché è giusto che in una democrazia ci sia comunque un'opposizione valida, io penso che debba veramente andare D'Alema e rifondare un centrosinistra vero e che possa fare una vera opposizione a Berlusconi. Questo è quello che penso. Va bene Luca, la ringrazio. Sentiamo Rosy Bindi a 8:30. Va. Non hanno avuto un esito favorevole per il partito, ma anche perché indubbiamente la vita stessa del partito non è stata semplice, però non mi aspettavo che si dimettesse e pur rispettando fino in fondo la sua scelta ritengo che non dovesse dimettersi, perché nonostante tutto io ritengo che questi prossimi mesi saranno mesi particolarmente impegnativi. Noi avremo elezioni europee, ma soprattutto, dico io, elezioni amministrative. Si dovrà fare subito dopo le elezioni comunque un congresso, ma il partito merita una guida, ecco, onorevole, in una fase così difficile. Onorevole Bindi, entriamo sul terreno propriamente politico. Beh, certamente l'ipotesi di un partito senza guida, perché questo si prospetta fino alle europee, lascia anche prevedere forse un disastro alle prossime elezioni. Vedremo. Ancora la Bindi, sentiamo. Sicuramente non si registra il fallimento di un progetto politico, sul quale ritornerò subito dopo. Sarebbe ingeneroso dire che si registra anche il fallimento di un segretario, perché io obiettivamente sono tra coloro che si è opposta, l'ho criticato in alcune scelte. Ma perché non, si è dimesso? Non mi sento di attribuirgli, la responsabilità anche per esempio della sconfitta, tutta la responsabilità della sconfitta della Sardegna e della sconfitta dell'Abruzzo, perché in Abruzzo arrestano il presidente della regione, c'è uno tsunami che si chiama Tangentopoli. In Sardegna tutti abbiamo, come dire, sperato che la personalità, il carisma di Antonello Soru riuscisse a... Di Renato Soru. Non è assolutamente indifferente, perché insomma non si ricorda nemmeno il nome del candidato, la Bindi. Renato Soru, no? Antonello Soru. Antonello Soru è il capogruppo del PD alla Camera. Maria Teresa da Milano, buonasera. Buonasera, complimenti. Grazie, dica pure. Niente, volevo fare una piccola premessa sull'intervento del professor Sgarbi, che io generalmente quando non fa il pazzo isterico approvo e condivido, diciamo. Non ho capito se lui, però, perché ero al telefono, vede in Bersani il futuro, il probabile candidato. Beh sì, mi sembra di aver capito. Ecco, sì. Ecco, diciamo che su questo, su Bersani, voglio dire, bravissimo professionista, ritengo, bravissimo all'opposizione, a mio giudizio non ha dimostrato lo stesso spessore quando era al governo. Faccio un esempio, quando ha fatto le varie proposte, le varie liberalizzazioni, i tassisti, eccetera, mi sembra che in quel momento, pur avendo buone idee, buone intenzioni, eccetera, anche non di sinistra, perché è una cosa che avrebbe dovuto fare Berlusconi, però diciamo che non ha dimostrato la grinta che può avere Berlusconi, vedasi il suo intervento in Sardegna, che diciamo ha vinto lui più che certo, il candidato. Certo. Poi un'altra cosa, per quanto posso fare un intervento sulla, dica adesso, su Bonolis. Ecco, io ritengo che, indipendente dall'invidia che le dico in tutta posso anche provare per una persona che prende 1 milione di euro per un anno di lavoro, per quanto possa essere tanto, ma mi sembra veramente un compenso di grande rilievo. Credo che quanto sta facendo Obama negli Stati Uniti debba essere un esempio per i nostri politici, per i nostri direttori, eccetera. È vero che, diciamo, gli introiti della RAI, quelli del canone, finiscono in una certa parte del budget, quelli della pubblicità in altre, come sentivo stamattina, c'era Brunetta. Però mi sembra assurdo che vengano, diciamo, riconosciuti compensi così elevati a un Bonolis, che io condivido, mi sta sulle palle anche a me, devo dire, ma indipendentemente da quello. E poi una persona che prende 500 euro di pensione, gli vengano sottratti 100 e passa euro per un qualcosa che in tutta onestà non mi sembra equa. Cioè, io guardi, credo Maria che Teresa, anche... però mi scusi, adesso poi la devo interrompere perché sennò non facciamo in tempo, abbiamo altri ascoltatori, stiamo per chiudere. Paragonare lo stipendio di Bonolis al trattamento che hanno i pensionati italiani, francamente non... Cioè, è un gioco troppo facile, non ci sto a questo gioco. Sono due partite completamente diverse, non c'entra nulla. Secondo me, con tutto il rispetto, naturalmente. Sebastiano da Milano per concludere. Buonasera, Cruciani, mi sente? Sì, la sento, dica, veloce. Buonasera. Senta, no, io da elettore del centro-sinistra penso di essere uno dei pochi che ha chiamato stasera, che mi stupisce, nel senso che ha chiamato un sacco di elettori del centro-destra per parlare della caduta di Veltroni. Al di là di questo, noto come di fatto Lodo Alfano, secondo me, si riveli utile non soltanto in termini opportunistici a Berlusconi, per quanto appunto non sia certo io il berlusconiano della situazione, ma di fatto anche all'Italia, perché siamo in un momento di gravissima crisi e se appunto il capo del governo fosse veramente coinvolto da un punto di vista penale in questo momento in una situazione e con oltretutto l'opposizione che si è sciolta, appunto l'opposizione. Beh, Sebastiano, la ringrazio di questa osservazione perché è un'osservazione molto interessante, non è un'osservazione detta da un berlusconiano o da un fan del Presidente del Consiglio. Cosa sarebbe accaduto, magari riprendiamo domani, cosa sarebbe accaduto in questa fase se fosse stato condannato Berlusconi? Interessante. C'è invece il Lodo Alfano. Alle 20:42, con qualche secondo di ritardo, ci sentiamo domani con La Zanzara 18:30. Ciao. La Zanzara.